Mix 24 di Giovanni Minoli. Focolai di scontri sono ovunque nel paese, questa è Caracas, lacrimogeni e getti d'acqua della polizia sui manifestanti che chiedono nuove elezioni. Migliaia di venezuelani sono tornati a scendere in piazza nella notte a Caracas e in altre città del paese per protestare contro il progetto di riforma costituzionale annunciato dal presidente Nicolás Maduro. Le donne di Caracas scese in piazza al grido libertà, pronte a sfidare la repressione del presidente Maduro per difendere la democrazia. La ministra degli esteri del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato il ritiro del paese dall'Organizzazione degli Stati Americani. Il rischio è l'isolamento, l'anarchia e la repressione brutale. Il rischio non si chiama solo Maduro, ma la più totale confusione tra i poteri dello Stato. Rivolgo un accorato appello al governo e a tutte le componenti della società venezuelana affinché venga evitata ogni ulteriore forma di violenza. Dunque, buongiorno, bentornati a Mix 24. Come abbiamo sentito, da oltre un mese in Venezuela c'è la guerra civile. Il governo di Maduro ha avviato una escalation di repressione nei confronti dell'opposizione che gli chiede di lasciare il potere. E dopo una lunga crisi economica e politica che sta schiacciando il paese. Rossana Miranda, giornalista, nata a Caracas, vive a Roma, dove scrive per Formiche, l'Inchiesta, il quotidiano venezuelano e l'Universal. Nel suo libro Hugo Chavez, il caudillo pop, lei scrive: il Venezuela è un paese seduto sul petrolio, in teoria ricco, ma è poverissimo. Finita l'era di Chavez, crollato il prezzo del petrolio, il Venezuela è sprofondato in una crisi che sta generando una rivoluzione e vi piazza appunto la guerra civile di cui stavamo parlando. Però questa guerra in Europa è una storia praticamente dimenticata. Ecco, Rossana Miranda, secondo lei perché è una storia dimenticata? Intanto buongiorno. Buongiorno. Sì, perché per molti anni non se ne è neanche parlato. Prima molti esponenti della sinistra hanno elogiato il modello di Chavez, però con il passare degli anni e gli effetti negativi sono semplicemente stati rimasti in silenzio. Adesso ne parla il Movimento 5 Stelle, che è andato con una delegazione. Sì, infatti. Però diciamo molto visto dall'Europa, non da lì. Visto dall'Europa cosa vuol dire? La differenza tra visto dall'Europa e visto da lì qual è? Cioè, ci fa qualche esempio concreto del dramma di chi lo vede da lì? Sì, lì ci sono, al di là di discorsi politici, ideologici, di destra, sì, sinistra, socialismo reale, e ci sono dei problemi quotidiani che hanno portato adesso l'opposizione in piazza, ed è che non c'è il cibo. Cioè la gente non ha da mangiare. Non ci sono le medicine, c'è una criminalità che ormai ha preso il sopravvento. Solo l'anno scorso ci sono stati 28.000 omicidi. Quindi 28.000 omicidi? Caracas resta la città più pericolosa al mondo, però le forze dell'ordine non hanno mai fatto un'operazione di sicurezza come quella che stanno facendo in questi giorni per reprimere le manifestazioni dell'opposizione. Ecco, un paradosso. Signora Miranda, senta, ma in tutto questo è vero che la gente non può neanche lasciare il paese? E adesso ci sono molti limitanti, ma da un po' di anni ormai. Perché? A parte il fatto che non ci sono più le aerolinee, quindi non ci sono gli aerei. All'Italia, che era una di quelle colorotte più frequentate, vista la quantità di italiani che vivono in Venezuela, non c'è più. Quanti sono gli italiani che vivono in Venezuela? 150.000. Quelli che hanno la cittadinanza italiana, che hanno il passaporto. Poi ci sono anche quelli di seconda generazione, che comunque hanno un'origine italiana, però non hanno la cittadinanza. Infatti, ecco, il governo adesso, c'è stata settimana scorsa una discussione in commissione esteri, Senato, Camera, con il ministro Alfano, dove non c'erano i 5 Stelle, e dove il ministro Alfano ha detto che saranno stanziati 1 milione di euro per assistere gli italiani che sono in Venezuela con medicine, cibo e perché manca tutto. Di prima necessità. Ecco, senta, ma il Venezuela con Chavez sembrava una nazione forte, in grado di stare in piedi grazie al petrolio. Poi cosa è successo? Bastato il crollo del prezzo del petrolio? Semplicemente quello, perché aveva il barile a $120, adesso è 35. Certo. Lui aveva promesso nel 98, quando ha vinto le elezioni, che avrebbe investito tutte quelle risorse che venivano dal petrolio, sì, in costruire una industria, perché il Venezuela da sempre, da quando all'inizio del Novecento è stato scoperto il petrolio, vive su quello. È passato di essere un paese agricolo a un paese petrolifero, quindi non si è seminato più niente, non si è prodotto più nulla, quindi lui ha detto che avremmo investito i soldi in quello, perché così quando il prezzo del collo sarebbe crollato noi saremmo rimasti in piedi. Certo. Senta, invece quello non è capitato. Ecco, ma alla fine è arrivato Maduro, la sua presidenza è molto contestata. Che uomo è Maduro? Lui era uno dei più fedeli non militari a fianco a Chavez dall'inizio della sua discesa in campo politico. Ma che differenza ci sono fra lui e Chavez? Lui comunque, Chavez aveva comunque una formazione politica fatta da quando è entrato in caserma, quando è entrato a fare il militare. Certo. Invece Maduro non ha nessuna formazione, non ha finito neanche il liceo. E lui comunque non ha il carisma che aveva Chavez. Ecco, ma Chavez, al di là di tutto, aveva un carisma che lo ha fatto diventare un leader regionale, certo, non solo del Venezuela, ma anche io tutto direi Sud America, anche della sinistra internazionale, perché anche qua in Italia, in Europa, molti della sinistra lo vedevano come. Senta, Chavez era molto amato, appunto, come dice lei, e aveva sfidato gli Stati Uniti. Poi però qualcosa si è rotto nel socialismo venezuelano. Che cos'è che si è rotto? Sì, aveva sfidato gli Stati Uniti, ma molto a parole, perché poi durante i suoi anni del governo, sì, la retorica era molto forte, faceva discorsi di 8-9 ore come Fidel Castro, insultando George Bush, però poi di fatto il Venezuela ha aumentato il 30% gli affari commerciali con gli Stati Uniti, quindi per quello in quel momento gli Stati Uniti neanche ci nominavano, perché tanto il petrolio e tutti risolveva i problemi, gli affari commerciali erano a posto, quindi lui ma poteva adesso, fare tutte le scenate che voleva. Sì. Adesso la repressione è entrata anche nell'università? Sì, ormai è su tutte... Soprattutto gli studenti sono quelli che sono in prima fila nella lotta, nelle manifestazioni. Però poi ci sono delle università come quella, la Università Central de Venezuela, la più grande del paese, che è sempre stato molto sono sempre stati molto critici i rappresentanti del movimento studentile contro Chavez e adesso contro Maduro. Ecco, adesso Maduro ha deciso di cambiare la Costituzione, in realtà sembra fatto per instaurare una dittatura. Ma cosa c'è dietro Maduro? Sì, lui ha detto che l'obiettivo principale di questa assemblea costituente, lo ha detto con queste parole, è annullare il Parlamento putrido che c'è, perché come tutti i deputati sono la maggioranza dei deputati sono dell'opposizione, perché hanno vinto le elezioni nel dicembre del 2015, e adesso stanno facendo delle proposte di legge e stanno bloccando delle cose che propone Maduro, quindi lui vuole semplicemente cancellarlo. Senta, dottoressa Miranda, ma gli italiani che vivono lì, no? Sono, me l'ha detto prima, sono molti. Come sono schierati in questa vicenda? Loro, ma al di là di chi ha votato o no Chavez e chi ha votato o no Maduro nel 2013, adesso il problema concreto di vita quotidiana sta portando alla maggioranza di quelli che vivono in Venezuela a volere un cambio di governo. Cioè, molti degli italiani che vivono in Venezuela sono di opposizione e hanno chiesto hanno chiesto sia all'onorevole Cassini, che è andato a dicembre, all'onorevole Renata Bueno, che è andato a gennaio, e ai delegati del Movimento 5 Stelle, che sono stati a marzo per commemorare la morte di Chavez, di aiutarli nei fatti concreti e di provare a mandare medicine, eccetera, con il governo per aprire un canale di aiuti umanitari. Senta, l'anno scorso in una rapina è stato ucciso il responsabile del consolato italiano, Mauro Monciatti. È stata aperta un'inchiesta, si è saputo più niente, lei ha delle notizie? No, nessuna. E visto che in Venezuela il tasso di impunità è altissimo, del 93%, quindi ogni 100 omicidi 93 non si sa più nulla, quindi purtroppo mi sa che quello è rimasto lì. Senta, ma che ruolo giocano gli Stati Uniti in questa vicenda oggi? Adesso, ma dalla campagna elettorale Trump ha detto che era molto preoccupato per quello che stava succedendo in Venezuela, e c'è Marco Rubio anche che è molto vicino all'opposizione, a molti rappresentanti dell'opposizione. Infatti Trump ha ricevuto Lilian Tintori, che è la moglie di Leopoldo López, un leader dell'opposizione prigioniero politico che è da quasi 3 anni è in carcere e non si capisce perché. Quindi secondo me adesso un po' se ne parla. Un po' se ne parlerà, piano. Senta, signora Miranda, Papa Francesco l'altro ieri ha mandato un messaggio ai vescovi del Venezuela dicendo: sono convinto che i gravi problemi del Venezuela, queste sono le sue parole, si possono risolvere se c'è la volontà di costruire ponti. Ma i ponti tra la Chiesa e Maduro esistono? Sì, ci sono stati, anche perché qualche anno fa il Papa ha ricevuto il presidente Maduro e quindi hanno provato a creare un tavolo di negoziati tra l'opposizione con qualche effetto, e il governo. Cioè Papa Francesco, che nel 2016 è fallito questo tentativo, ecco. Quindi adesso si vuole riproporre con le stesse condizioni e anche con gli stessi mediatori, tra cui c'è l'ex presidente spagnolo Zapatero. E quindi l'opposizione dice: noi non ci andiamo perché lo abbiamo fatto nel 2016 e non ha funzionato. Funzionato, e anzi Maduro è diventato un po' più rigido e violento. No? Senta, fatti. Papa Francesco comunque è sudamericano, secondo lei può svolgere un ruolo decisivo oppure no? Tutti abbiamo avuto la speranza quando è stato nominato nel 2013, perché già all'epoca c'erano un po' di problemi. E purtroppo non ha voluto entrare nel merito per molti anni, adesso lo sta facendo anche con delle dichiarazioni un po' sbagliate, perché ha detto che l'opposizione in Venezuela è molto divisa durante il volo di rientro dall'Egitto, invece è l'esatto contrario. È unita, mai nella molto storia, unita. Dal 98, mai come adesso, l'opposizione è così unita. Vogliono semplicemente che ci siano che cambi le elezioni. Il governo. Ecco, ma ci saranno queste nuove elezioni, signora Miranda? Sono due le elezioni che dovrebbero esserci. Prima quelle regionali, che erano programmate per quest'anno, il governo ha deciso di annullarle. Non si capisce neanche perché erano previste per quest'anno. Sì. E poi le presidenziali per il 2018. E c'è il referendum abrogativo, che è stata un'invenzione di Chavez e c'è adesso nella Costituzione, proprio per risolvere questo tipo di problemi. E lui si è messo in gioco in un referendum simile nel 2004 e l'ha vinto. Quindi così ha detto: così siamo chiari, ci contiamo, la maggioranza vuole stare con me, quindi lasciatemi governare. Maduro adesso dovrebbe fare lo stesso. Lo farà la stessa cosa? Fino adesso non ha voluto. No. Ma secondo lei la sua previsione, un'ultima cosa, cadrà o resisterà Maduro, signora Miranda? Secondo me qualcosa succederà, non so poi il cadrà, spero sia per la via elettorale. Tutti lo speriamo, perché c'è già stata troppa violenza. Però se continuano a essere così rigidi e vogliono proprio avere ragione solo loro, purtroppo c'è il rischio, c'è un grande rischio, perché il paese non può andare avanti così, la gente sta morendo di fame. Grazie signora Miranda, grazie. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Chissà, Mario, se durante l'incontro fra Trump e il Papa parleranno anche di questo problema del Venezuela. Secondo me sì. perché la situazione venezuelana sta scivolando rapidamente verso la guerra civile totale. Ci sono stati 34 morti, mi pare, nell'ultimo mese. E poi il numero di omicidi che ha dato la Rossana Miranda fa spavento. È una cosa tremenda. Vabbè. È il buco nero del Sud America. Adesso torniamo in Italia per parlare di un fatto di cronaca, di Igor, il russo, Igor il killer di Budrio, che è ancora latitante. La caccia prosegue da mesi e, malgrado gli annunci continui, le promesse, nessuno ancora è riuscito a catturarlo. Gli danno la caccia come ai terroristi in Afghanistan, lo cercano anche con i droni. Igor Vaclavic Norbert, un uomo difficile da individuare via terra, tra rovi, boschi e paludi. Per gli investigatori si nasconde ancora in quella che è considerata la zona rossa, la bassa tra il bolognese e il ferrarese, e più aumenta il numero degli uomini dei reparti speciali, più il killer sembra essere un fantasma. E in queste ore gli inquirenti, non ditemi perché, si sono convinti che questo personaggio che sta devastando le campagne dell'Emilia Romagna è lì per essere preso. Buongiorno Luca Telese, giornalista, conduttore del programma La Sette, sulla Sette, Bianco e Nero. Luca, appunto, abbiamo sentito la tua voce nella tua ultima puntata, avevi parlato proprio di Igor e avevi detto, come abbiamo sentito, in queste ore non chiedetemi il perché gli inquirenti si sono convinti che è lì per essere lì per essere preso. Quanto è passato da quella trasmissione? Le voci erano quelle dell'imminenza dell'arresto, avevano detto che l'area era circoscritta, che era mappata, c'era questo intervento congiunto di tre feticci della cronaca, no? Il drone che vede dall'alto, i visori a raggi infrarossi e per di più l'aggiunta di 8 corpi diversi dello Stato più i cani molecolari. Luca, puoi allontanarti leggermente dal telefono perché rimbomba. Droni, i feticci proprio della caccia all'uomo, droni, visori a infrarossi e persino cani molecolari, più 8 corpi diversi di polizia ed esercito. Il risultato che abbiamo superato, stiamo entrando nel secondo mese e non si è trovato. Ecco, ma tu sei fatto un'idea di questo caso? Sì, beh... perché non riescono a prenderlo? Ma è possibile? Ma guarda, la cosa più sensata l'ha detto, perché poi è stato intervistato il carabiniere che lo arrestò la prima volta, lui ha fatto 8 anni di carcere, e quando lui fu arrestato disse a questo carabiniere: hai avuto fortuna che non ho fatto in tempo a ricucirmi la ferita ieri notte e quindi non ho corso con la velocità che avevo. Quindi è un uomo addestrato con tecniche militari, paramilitari, ha fatto guerriglia, ha fatto controresistenza, si è detto ex militare russo, ma poi si è scoperto che non è russo. Anche lo stesso nome Igor Vaclavic è uno pseudonimo, a 40 anni, si chiama Norbert Fer ed è addestrato a resistere alla giungla. E se volete la prova che il mito di Rambo ha un fondamento, nel senso che è un ex militare un po' disadattato che uccide con arco e freccia, con la scure, vestito da ninja, coperto con un velo, insomma è il trionfo di questa idea antica che c'è nella guerriglia militare, della guerra non convenzionale, che la tecnologia scompare di fronte a queste persone. Ecco, ma è vero che ne dico una, hanno trovato in un giardino di casa nel bolognese, hanno trovato una catasta di rovi perfettamente, di bastoncini perfettamente tagliati e impilati per costruire una specie di rifugio in cui avrebbe dormito 4 ore. Sono andati lì con i cani molecolari, hanno seguito una pista, sono arrivati a un altro di questi rifugi che rendono non visibile dall'alto la figura e neanche monitorabile con i visori a infrarossi, e poi hanno scoperto che l'ha costruita apposta davanti a un fiume perché la mattina si sveglia, entra dentro quelle acque e ogni volta fa perdere la pista rispetto al fiuto, corre nei calaloni della bassa, ma anche striscia impastato di fango, di corpuscoli di terra, di foglie. Insomma, è veramente un mago delle tattiche non convenzionali che hanno sempre reso dai tempi del Vietnam vincente un esercito su un regolare. Senti, Telese, sul giornale qualche giorno fa il comandante Alfa, 47 anni di carriera nei Carabinieri, quello che ha fondato il gruppo di intervento speciale, un reparto d'élite che in queste settimane è alle costole del criminale serbo oppure non serbo, ha dichiarato: vivo o morto lo prenderemo. Ma credi che da morto è più facile prenderlo o no? Ma se lo prendi muore, perché non è un uomo che si arrende alzando le mani. Quindi lo ammazza, sì. È vero che una volta sola, quando stava per commettere l'omicidio, è sceso un fattore con un fucile in mano e lui ha preferito non ingaggiare il fuoco. Però siccome sa di essere braccato, non credo che, diciamo, per dirla proprio con una frase proverbiale, non venderà cara la sua pelle. È uno squilibrato, è un disadattato. Senti, però non quella zona, scusami però Luca, in quella zona non è che la zona sia enorme tra il bolognese e il ferrarese. Com'è possibile che 1000 uomini impegnati non riescano da un mese e mezzo, quant'è? Questo è la grande domanda. C'è sicuramente uno smacco, anche perché hanno coinvolto quasi i cacciatori delle Alpi, gli abruzzesi. Però è anche vera una cosa, che è una zona, per chi la conosce, piena di canali, di acqua, di nebbia, quindi magari ora con la stagione che migliora potrebbero cambiare le condizioni. Però in questo momento un uomo esperto di queste tecniche, espertissimo, ricordiamoci anche nei Balcani che tipo di guerra c'è stata, chi è esperto di queste capacità mimetiche sa come fuggire. Ecco, per esempio, la cosa di sfruttare continuamente i canali di acqua è quello, sicuramente, diciamo così, le tracce olfattive, è un accorgimento una che tecnica disattiva i cani, che abbiamo visto usare anche in Vietnam. Senti, ma è vero, per quello che ne sai tu, che gli abitanti delle zone più isolate in realtà gli lasciano dei bottini di sopravvivenza perché hanno paura, per evitare il peggio? Guarda, io oppure, noi abbiamo intervistato con il programma due dei sopravvissuti, il tono non era affatto amichevole. È vero che è stato avvistato molte volte, addirittura una volta recentemente, addirittura a fare la spesa nel supermercato, ha trovato il modo di lasciare in uno dei suoi rifugi un telefonino col codice email a braso, segno che telefonava, ha dei contatti con qualcuno. Quindi non è solo. Forse è solo, ma ha dei contatti, qualche appoggio logistico. Ha persino lasciato una cravatta in un rifugio e ha fatto delle foto, per così dire, di rappresentanza. Ma visto che lui è arrivato in Italia nel 2005, ha lavorato come operaio, ha collezionato poi una serie di avventure sanguinarie fino a questi ultimi omicidi, che avvengono anche per piccole refurtive, per motivi futili, e questo lo rende ancora più pericoloso, e per questo che fa paura anche alle persone che vivono magari isolate? Assolutamente sì, perché non ruba per motivi venali, ruba per la sua logica della sopravvivenza. Quindi lui, quando è a corto di scorte, di cibo, di potenzialità logistiche, entra in azione, colpisce chi trova e prende quello che serve, il che lo rende più imprevedibile e più pericoloso. Ecco, ma secondo te perché, visto che è stato già preso, rilasciato, perché non è mai stato espulso prima? Ah beh, questa è una follia dovuta al fatto che la sua identità non è stata mai accertata, non esisteva. Non Quindi è stato praticamente non registro. Sanno chi è poi alla fine non di tutto. Non sapevano chi era, lo hanno processato con un altro nome, è una cosa un po' incredibile, ma è così. E quindi fino a poco tempo fa era Igor Baklavich. Ma adesso siamo sicuri che sia quello che si dice? Adesso dicono di essere sicuri gli inquirenti, io penso che non sbaglino una seconda volta, se no saremo veramente alla parte. Comunque certamente vengono a tutti in mente, l'hai citato anche tu prima, personaggi del cinema come Rambo. Senti qua. Ritieni che io possa aiutarvi? Non vedo in che modo. Rambo è un civile, adesso è un problema mio. Allora vedo che non hai capito. Io non sono qui per salvare Rambo da voi, io sono qui per salvare voi da lui. Ecco, siamo arrivati a questo un po'. Leggendaria. Siamo arrivati qua, più o meno. È un grande cultore della trilogia, quindi tutta. Senti, siamo qua più o meno, no? Sì, siamo qua perché è una cosa spiegata nei manuali. Un uomo con questa esperienza, incontrollato, privo di logica se non questa del mordi e fuggi per sopravvivere, è praticamente non mappabile, cioè non ha talloni d'Achille, può essere solo trovato sul campo con la fortuna di trovarlo con il più classico rastrellamento. Senti, l'hai appena citato, Mario ti vuol fare una domanda. Ciao Luca, scusa, ma io ho un tremendo sospetto, e magari la mia è solo una cosa che non sta in piedi, ma non è che quello è da un'altra parte? Questo sarebbe sarebbe stupido, però cioè, allora, ragioniamoci contro, freddamente, è, sì, abile, è vero, contro queste può cose scappare, fatto, ci sono decine di avvistamenti, troppi per essere solo mitomania. Solo negli ultimi giorni mi pare che sono 4 persone che lo hanno avvistato, lo hanno descritto, hanno spiegato anche che in alcuni casi si è fermato, ha incrociato lo sguardo. Sarebbe un caso veramente di però il comandante, però Luca, il comandante Alfa ha detto che lo stanno cercando lì, è vero, ma lo cercano anche in tutta Italia. Secondo questi mille carabinieri, cioè, non lo so. A me sembra difficile veramente che sia ancora lì, cioè. E poi scusa Luca, ma lo adesso insomma un po' di nera l'abbiamo fatta, lo avvistano i cittadini e non lo prendono i carabinieri, ma manco a oggi le comiche, una cosa del genere, cioè, mi sembra... Perché come ha spiegato Giovanni, lui ha bisogno di uscire ogni tanto dal suo anonimato per rifornirsi, quindi dove va? Va nelle case isolate, va negli spacci dei piccoli paesi, è lui che sceglie questo tempo e poi scompare. Non è la sua facilità di apparire, è la sua facilità di scomparire. Comunque se lo beccano in Sicilia mi dovrei pagare almeno un gelato nei prossimi mesi. Va bene, grazie Luca. Ciao. Grazie, ciao. 800 24 00 24 per gli sms 349 238 6666. Comunque certo, pubblicità, no? Mix 24. Vabbè, la fantasia dei nostri ascoltatori si è scatenata su Igor, il più spiritoso. Dice che Igor fugge ai carabinieri, a Toscania, ai cani molecolari, perché si è rifugiato nell'autorimessa della caserma dei carabinieri, dove nessuno pensa di cercarlo. Senti, per chiudere, Mario, ma lo prenderanno prima o poi vivo o morto? Sì. Cioè, allora, il gran finale di una storia del genere è che sparatoria, lui muore in un conflitto a fuoco. Conflitto a fuoco, insomma. Però come, io continuo come a in Sicilia, che non sia là. No. Cioè, senti, che non... però una caccia all'uomo del genere non si vedeva da tanto tempo, Ma così, io non me ne ricordo una da da tantissimo, Giovanni. Vabbè, senti, vai con la tua bolla, Mario. Sì. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Comunque, senti, questo è un pezzo, mamma mia, unico della nostra storia. Ha cambiato anche la con storia la voce della musica di Malika. Di Malika, sì. Anzi, gli davo un che. Sentiamo un po'. C'è un senti. Dipinto di blu, felice di stare lassù. Aggiunge una tenerezza in più, sì. Toglie sai, violenza e mette tenerezza. Io ci ho fatto una cosa su Modugno e questo pezzo nel mio libro 3 anni fa ormai. E il brano nasce quando negli Stati Uniti prende forza, potenza la NASA e si comincia a pensare quindi l'agenzia spaziale, cioè, al volo. Come al volo nello spazio. Al volo. E Ciagagliano poi è bellissimo, è di una suggestione unica. Vabbè, vai con la bolla, Mario, che tu... E io l'avevo messa questa qua. Perché? Perché stiamo andando sulla Luna. Perché no? Perché volevo parlarti di Alitalia. Nel frattempo la cronaca incalza e sostituisco al volo dicendo solo che è il caso di dire al volo, che all'Italia oggi si discute alla Camera, si votano alla Camera le pregiudiziali per dare i 600 milioni, sì. E sempre al volo invece da Roma, dall'aeroporto di Fiumicino, vado all'aeroporto Charles de Gaulle, atterro a Parigi e vi dico che stanno succedendo cose meravigliose. Cosa incredibile, perché la candidatura di Manuel Valls, che è il primo ministro che doveva essere candidato con Marsh, non sarà accettata dai macronisti, dal partito di Macron. Perché? Cioè Macron ha detto no a Valls. Cioè Valls si è candidato ieri. Si era dimenticato di dirglielo ieri. Sì. E il presidente di dice, Marsh, no, grazie. Il presidente della Commissione Nazionale che controlla le candidature ha detto: ma al momento questo non ha i requisiti. Noi, non si sale sul carro. No, non si sale sul carro dei vincitori e noi non ricicliamo nessuno. Ora dovete immaginare che questo è per il sistema politico francese una specie di tsunami. Beh, sì. Perché allora diciamoci la verità, Macron è un candidato antisistema, assolutamente, è antipartito, ha affondato il Partito Socialista, ha messo nei guai la destra repubblicana e ha un modo di fare, passatemi le cose, grillino nel certo. Senso che lui dice: io sono il nuovo e se voglio nuovi. Solo nuovi, quindi se questa sarà la moglie del primo ministro se questo è lo spartito, sì, è Renzi del rottamatore, il primo Renzi. Poi si è dimenticato Renzi, e pazienza, si è dimenticato, non ha potuto, non è riuscito, non so, secondo però, me si è incagliato sulla Boschi, ma questa è una mia opinione, probabile. A questo punto cosa succede? Che siccome c'è in ballo la grande poltrona ovviamente del primo ministro, certo, se questo è lo spartito, stavo dicendo, a mio avviso potremmo avere delle grosse sorprese anche infatti, nella scelta di quello che sarà poi l'uomo o la donna che andrà a guidare l'Hotel del Matignon. Comunque, quindi, adesso interessantissimo. Sì, molto. Adesso noi ascoltiamo una storia che ci presenta il lato meno raccontato dell'Italia, che arriva dalla rete di Italia che cambia, che noi seguiamo con assiduità. Alessandra Fiore ha intervistato uno degli agenti del cambiamento. Mille speranze, mille vite, mille sogni, mille destini, quando si incontrano fanno scintille, fuori dai riflettori si muove nuovi mille. Un solo sogno stretto dentro al cuore, che la politica sia ancora un'occasione. Alessandro Beffa, 37 anni, sognava di aprire una pizzeria, ma con la crisi l'impresa era diventata impossibile. Così nel 2011 è nata la Biopizza Itinerante. Ecco Alessandro, in cosa consiste esattamente? È una pizzeria mobile, in quanto è un rimorchio con allestito un forno a legna. Quindi a tutti gli effetti noi la chiamiamo pizzeria. Ma voi avete messo un vero e proprio forno a legno su un camioncino. Com'è possibile? Sì, è possibile, nel senso che è stato progettato appositamente e realizzato da un artigiano. Tra l'altro il forno a legna è realizzato in terra cruda, in argilla, proprio per una motivazione di resistenza alle sollecitazioni. Quindi è proprio un forno al 100% naturale. È un forno vero e proprio che si sposta. Sì, sì. E qual è il raggio di azione e di vendita della vostra biopizza itinerante? Noi ci muoviamo in tutto il centro nord Italia, presenziamo delle manifestazioni a tema sul biologico, sugli stili di vita sostenibili e sull'ecologia in genere. Un'altra particolarità della vostra pizza, oltre ad essere itinerante, è quella di essere fatta unicamente con prodotti bio e a chilometro zero. Ecco, ma quanto costa tutto questo? Sicuramente costa più di una pizza tradizionale, ma ha comunque un prezzo assolutamente accessibile. Diciamo che il nostro obiettivo era proprio quello di azzerare, diciamo, delle spese gestionali per poter proporre in piazza alle persone una pizza più buona di quelle che siamo abituati a mangiare, grazie alla bontà degli ingredienti che andiamo proprio a cercare. E ci tengo a precisare che utilizziamo ingredienti da aziende agricole, quindi non accediamo alla grande distribuzione, ma noi conosciamo singolarmente ogni nostro fornitore, sappiamo come lavora e riusciamo a ottenere, diciamo, un prodotto sicuramente più buono a un prezzo comunque accessibile, insomma, di sicuro non viene a costare 10 euro una margherita. Ecco. Ma dove avete trovato il capitale per iniziare? Siamo stati finanziati da una cooperativa solidale etica che si chiama Maxei, proprio perché inizialmente nessuna banca era interessata a finanziare il nostro progetto, quindi non, nonostante avendo fatto 2 o 3 incontri nessuno era interessato, diciamo. E fortunatamente abbiamo intrapreso questo discorso con la Max 6, che ci hanno finanziato per ben 2 volte. Pensate di espandervi con altri camioncini? Stiamo pensando, sicuramente. Diciamo che l'idea funziona, poi adesso più che mai abbiamo visto che va di moda proporre un cibo di qualità, anche etico, volendo, perché la nostra idea era quella di realizzare i principi che noi portiamo avanti quotidianamente anche nella sfera lavorativa, diciamo, ecco. Grazie. Per altre informazioni sulla biopizza itinerante e sulle altre realtà della rete di Italia che cambia, www.italiachecambia.org. Mille speranze, mille vite, mille sogni, mille destini, quando si incontrano fanno scintille, fuori dai riflettori si muove nuovi. Vabbè, questi nuovi 1000 fantasie ce n'hanno, si danno la da fare. La fantasia degli imprenditori italiani è tantissima, gente vai brava, disgraziato. Sì, però. Appunto. Un disastro. Vai con un'altra bolla. Ancora musica, molto bella, sentite. I'm wishing on a star to follow where you are. Wishing on a dream. Bello, to follow where you be. Paul Weller. And I'm wishing on all the rainbows. Allora, Giovanni, non so se si debba desiderare essere una stella. Sicuramente, visto il fisco, per esempio, che abbiamo evocato adesso, e viste le condizioni in cui devono lavorare i piccoli e grandi imprenditori italiani, tanti sono in ascolto del nostro programma in questo momento, verrebbe voglia di dire: ma perché non ci andiamo tutti in Germania? Pensa. No, vabbè, dai, sì, ma sono super. Facciamo la battaglia per la riforma della pubblica amministrazione. Ah sì, anche certamente, però la cosa interessante è che i tedeschi, a parte che ieri hanno polverizzato tutti i record sull'import-export, ma riescono a guadagnare perfino dai giornali. Cioè la Bild, il gruppo Axel Springer, che edita la Bild, che è un giornale pop molto forte, eccetera. Vabbè, però Cairo ha visto che col Corriere sta cominciando, ne deve fare di roba. E vabbè, cominciato. Deve bisogna fare tanto. Sempre il primo passo. E insomma, attraverso gli abbonamenti digitali, Pay, pagamento, e la pubblicità classificata, che in Germania è ancora molto forte, e soprattutto, lasciatemi aggiungere, la credibilità della stampa tedesca, che è sempre altissima, hanno dei prodotti di grande qualità. Beh, insomma, mischiato tutto questo, questi fanno 836 milioni di euro di ricavi nel primo trimestre, è un incremento molto forte. Vabbè, vai a lavorare la Bild, ok. Purtroppo io te l'ho già detto, io non parlo il tedesco. Mi piacerebbe tanto, perché è la lingua della perfezione filosofica, però non c'è dubbio, sarebbe bello leggere in tedesco le opere non si può. Cioè, io purtroppo non ho fatto l'università di Tubinga quelli 800 come quelli giusti 800 24 00 24 numero verde 349 238 6666 l'SMS pubblicità. X24. Un momento, signore. Lei è Margherita Zelle detta Matari? Ma che modo è questo di importunare la gente per la strada? Lasci perdere, è un trucco che non funziona. Si guardi attorno. E va bene. Andiamo. L'arresto della danzatrice Matari, il retroscena delle danze giovanesi, la storia di un'organizzazione di spionaggio, i delitti e le orge di Matari. Si conclude così, col suo arresto a Parigi, la carriera di Matahari, ballerina, avventuriera, ma soprattutto la più famosa spia di tutti i tempi. Margherita Gertrude Zelle nasce in Olanda il 7 agosto del 1876, figlia prediletta di un importante commerciante locale. L'infanzia in collegio, poi un matrimonio che finisce presto. Per vivere fa la ragazza in vetrina ad Amsterdam, poi si trasferisce a Parigi dove inizia mille mestieri, modella, cavallerizza e poi danzatrice col nome di Matahari. A infrangere i suoi sogni arriva la Prima Guerra Mondiale e Margherita, già amante di uomini potenti, inizia la sua carriera come spia, corteggiata sia dai francesi che dai tedeschi. È proprio con l'accusa di doppio giochismo che viene catturata e condannata a morte nel poligono militare francese con l'accusa di essere spia dei tedeschi. Un'accusa mai veramente provata. Margherita Zelle, detta Matahari, è stata condannata alla pena di morte mediante fucilazione. per ordine del generale comandante della piazza di Parigi, l'esecuzione della sentenza è stata fissata per oggi, 15 ottobre 1917, alle ore 5 del mattino. Fuoco! E dopo il giornale radio racconteremo questa storia incredibile, la storia dedicata a Matahari. Ecco, adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Lancet, novembre 2016. L'inaccettabile realtà dell'assistenza delle persone con demenza. Per la prima volta in Scozia ed in Inghilterra si muore più per demenza che per malattie cardiovascolari. Naturalmente sono molte le cause. Intanto la demenza è una malattia a età correlata e quindi siccome ci sono più vecchi ci sono anche più dementi. Ma anche naturalmente c'è una miglior diagnosi di quella che veniva ritenuta fino a un po' di tempo fa una specie di malattia sociale. Che ci vuoi fare, nonno si è un po' rimbambito? E no, non si è rimbambito, c'ha la demenza o la malattia di Alzheimer. Altrettanto le malattie cardiovascolari sono molto meglio trattate, mentre invece ancora per la demenza e per la malattia di Alzheimer il trattamento è praticamente inesistente. Allora si riferisce in questo studio come vengono assistiti i malati di Alzheimer e di demenza in Scozia e in Inghilterra, richiedendo, visto che non c'è una terapia, perlomeno un buon livello di assistenza, cioè un livello di competenza nell'assistenza e un'assistenza compassionevole. Queste persone hanno bisogno veramente di compassione. La realtà è terrificante, perché viene riferito attraverso la Società per l'Alzheimer inglese che queste persone sono spessissimo lasciate senza cibo e senza acqua, vengono lasciate bagnate nel letto, non lavate per settimane, insultate, con personale che in genere non è educato a lavorare con i dementi. In Canada si è fatto un documento con 29 raccomandazioni. Gli autori dell'articolo dicono giustamente che poche carte scritte, poche raccomandazioni, ma una cura individualizzata, integrata e, ripeto, compassionevole. Questo è il minimo che dobbiamo ai nostri fratelli ammalati di demenza. Chi più 30? Tu. E per chiudere, Gloria Guerrera, questa mattina che cosa ci propone? Oggi una canzone per chi vive la finzione dell'addio, la fine del gioco che ora vuole solo sorrisi. Don Marino Barreto, arrivederci. Arrivederci, dammi la mano e sorridi, senza piangere. Sfidato l'amore.